veramente si andranno a cambiare la numerazione, ovvero al numero 1. Canale 10. Secondaria tipo no? No, negativo, si fa lo stesso. Sì. Io stavo girando un po' sui canali, c'era qualcuno in FM, qualcuno in banda laterale, sui canali normali, anche sui canali alti, in banda laterale. Mi stavo intossicando con le impostazioni degli apparecchi. Opzioni mai viste, che funzionano solo in FM peraltro. Ah, ho capito, chissà cosa è. Lo dico già. Ma perché non dà un segnale più forte? Aspetta che c'è mamma che mi sta importunando. Ripeti tanto? Ho detto, non ho fatto il segnale più forte a casa tua. Oddio, Anto, sto usando un altro apparecchio, qui arrivi 9.40, sto usando quell'apparecchio che c'è LED col fondo scala più ampio, SI a 9.40, credo che sia il massimo, di più non va. Vai, non ammara. Guarda, ci voleva lo smitter del Kenwood, l'unica cosa che rimpiango è lo smitter, porca miseria, quello era bello. Ma perché non te lo sei tenuto? Lei non mi ci trovavo, Anto, col K, non mi ci trovavo, mi piacevano più i baracchini con tutte le loro menate per la 27, capito? E poi, dopo tutto, con la mia voce non rendeva, con la voce più cupa, no? Più bassa, più... non rendeva tanto la mia voce, quindi era un peccato. Caspita. Dovrei fare più in là delle migliorie, so che non trovo il cavo, cazzarola. Il cavo? Che cavo? L'H155 volevo. Ah, perché sì, qua quello, cioè, come arriva lo vende. a meno che non te lo ordini online. Capito, Belden H155, però richiede che sia quello Belden originale, non cinese. E lo vendono tanti e non è un problema. Va bene, ma non c'è nessuno che me lo può ordinare. Volendo sì che c'è tanta gente lo può ordinare, anch'io potrei ordinarlo se potessi caricare la scheda. Perché vorrei fare un buon lavoro, vorrei fare almeno 20 metri. Via, per la 27 oppure per qualcosa più in alto, quello va bene anche più in alto, eh. No, per qua, l'ho piazzo, vorrei mettermi una ringo alta con un palo di 4 metri, capito? Sono convinto che esce un bel fossile, no? Via, se non una bella antenna, come Dio comanda. Ma perché la ringo è leggera, già andava bene, diciamo, dai. Anche oggi è una bella giornata, stavo decidendo se fare un giro, perché c'ho una barba, sembra un naufrago, mi devo fare la barba, i capelli, oi, andando a fare tutto, è tramontato il sole. Già lo so, ascolta, ma tu cosa avevi fatto, l'avevi data? La ringo? Eia. Sì, guarda, io l'avevo messa nel 2013, primavera 2013, dopo un anno preso dalla disperazione, perché come pioveva salivano e scendevano le stazionarie, c'era stato, l'avevamo impermeabilizzata non perfettamente, e in più si era staccato, aveva ceduto l'isolatore, cioè si era staccato lo stile, il radiatore dall'isolatore, ed era balla a balla, era tenuto dalla bobina. E poi non arrivava a Porto Torres con i 4 watt. E allora mi sono rotto le balle. L'abbiamo tolta, dopo un anno abbiamo messo la Energy, caso strano, con la Energy arrivavo a Porto Torres con gli stessi watt, con 4 watt arrivavo, con la Ringo non arrivavo, ero nel QRM, capito? E quindi la differenza un po' c'è stata. E poi l'avevo data a Pomponio per pezzi di alluminio, come rottamini, l'avevo regalata a Antonello. Allora io quella che ci avevo io, cioè quella che ho io in deposito, l'ho rifatta a nuovo, capito? L'ho proprio rifatta. E pompa, hai visto che arrivo, ho tanti watt e va. Sì, vabbè, sempre, vabbè, in città il problema non ce n'è, un po' le differenze si vedono a distanza, poi vabbè, tu sei anche più in basso, conta una cosa. Considera Natalino, vedi, lui non è nemmeno in un fosso, però molte stazioni non le sente, o più di tanto non riesce ad arrivare, è proprio, non lo so, eppure non è nemmeno chiuso da palazzoni enormi. C'è pur sempre una 5 ottavi, eppure non riesce a collegare molte stazioni che sono fuori. Boh. E poi cos'altro ti volevo dire a proposito delle antenne? Vabbè, parlando di mezz'onda fatta bene, la Grazioli ha fatto anche la mezz'onda. Aveva la 5 ottavi, ha fatto la 7 ottavi, ha fatto anche la mezz'onda, però con materiali di prima scelta, fatta bene con la bobina che è spettacolare vederla. Mezz'onda. E con le prove comparative hanno preso una Energy mezz'onda, cioè come la mia ma mezz'onda, la Grazioli, fatte con prove con lo stesso watt, stesso apparecchio, eccetera, gli ruba da mezzo Santiago a un Santiago in più la Grazioli. Quindi come vedi le mezz'onda non sono tutte uguali. Già lo so, ma questa Grazioli funziona bene, arrivo in tutti i canti dei lunghi. Mi sento una bomba, mi sentono. Di andare bene. Buonasera da Giovanni, cambio. Caspita, ma non c'è il terzo pettine? Positivo. Cazzo, Santiago 9, Radio 5, 9.5, dai. 7001 è il microfono amplificato. come lo senti a Giovanni tu? Ciao Giovanni, Marco da questa parte, segnale 8 e mezzo, radio buona, per non dire ultima. Com'è il mare lì? È agitato o si è calmato? Con questo vento credo che sia agitato. Grazie per il controllo radio. Sì, c'è anche un bel leggero effetto eco. Cappa, ma non riesci a aprire l'energia con l'apparecchio? Come lo esce un bel forte? Ecco, questo è l'unico che non ho toccato, io tutti sminchiati gli altri. Cappa, se lì apri l'energia esce un bel forte con l'apparecchio lì. Lo puoi fare da qualcuno, cos'è l'Intec? No, è un coso là, come nel cazzo si chiama? Midland 7001, ma è molto vecchio, avrà 30 anni questo apparecchio. Vabbè, però ci arrivi, quanto ne hai messo? Quella Sirio, quella che stavate dicendo voi praticamente. Grazioli, Sirio, più o meno la stessa. No, non ho capito, la Sirio. Sì, una Sirio. Ma Sirio mezz'onda? Tipo la Energy mezz'onda? Aspetta che ti dico proprio le caratteristiche. No, tanto, però hai visto che le mezz'onda non sono tutte uguali, così come non sono uguali le 5 ottavi. C'è la Grazioli di Ruba da mezzo Santiago a un Santiago in più in trasmissione. E guarda che è un bemmi, mezzo Santiago sono 3 decibel, un Santiago sono 6 decibel, è una differenza notevole, anche se tu sei un misero Santiago o mezzo Santiago che sia, eppure la differenza c'è. È come dire, ti faccio un paragone terra a terra, è come dire, questa qui che è una 5 ottavi comparata alla Mantova, sicuramente la Mantova gli ruba quel mezzo Santiago, se non un Santiago in più, capito? Quando la tena è massiccia e fatta bene, guadagna sempre di più. Questa è abbastanza economica, quella dicevo io, è tipo la Venom, un tantino meglio, dai. A voglia. No, ma va bene, capito, adesso lo sentiamo. Prima non andava manco a Roccio, non andava. Ma lui abita lì a Platamona, abita, no? Terzo pettine, quanto ho capito. Positivo, terzo pettine. L'antenna è una 5 ottavi GPE. 5 ottavi GPE, allora tu hai la stessa mia antenna, però la mia è marcata Midland New Energy e la tua Sirio GPE, è la stessa identica antenna, è un clone. Tu c'hai di diverso solo la gabbiettina in punta, gabbiettina antistatica, qua c'ho il puntale dritto invece. Sì, in punta c'ho anch'io un puntale e c'ha 3 radiali. Beh, allora, vabbè, i 3 radiali sono in basso, ma dico in punta l'antenna non c'è quella gabbiettina tonda, sembra un piccolo globo fatto da 2 cerchietti. Affermativo, hai ragione. Spiega, sì, l'unica differenza dalla mia è che io ho il puntale dritto, cioè non hai quella piccolo globo, però è un'antenna dalla resa onesta, diciamo. E io ce l'ho già da 8 anni mi qua, è bella in alto, prende il maestrale pieno, non pienissimo perché non sono fronte mare, però ce l'ho da 8 anni mi, compie 8 anni a maggio, credo che sarebbe durata un anno, 2 massimo, invece tutta bella dritta, ci sono tutti i radiali, è incredibile, guarda. E vuol dire che sono stati usati materiali ottimi, gli altri 20, a quanto sento dire vanno via e malora, anche questa qui ne prende di vento, e poi c'ho un'altra Ringo, che è impressionante il vento che sta prendendo con l'antenna, eppure manco Rubero l'ha coccato. Diciamo che è leggerina, no? È sottile rispetto alla Mantova e altre antenne performanti, è sottile, però essendo anche sottile prende anche meno vento, c'ha meno superficie esposta al vento, capito? E quindi funziona, finché funziona, quando si rompe la cambiamo. Ti voglio dire. Riprendi Antonio che vado a bere. Al mare, guarda, vogliono vulcanizzarti al massimo, perché se no ti dura poco questa antenna. Sì, adesso l'avevo messa proprio per fare 4 piatte, ma poi quando arriva un po' di bel tempo ne la scendo e la sistemo bene bene. A quanti metri il palo c'hai? Ma il palo è 3 metri, non credere che è tanto alto. È buono. Dove senti lì di segnale? Buono il segnale lì a Platamona. 7 radio 4. Vabbè, io no, radio già abbastanza forte. Ora. Vabbè. Comunque, no, ma Ciccia va bene già, caspita. Per com'è la voglia. Antonio, con quanti batte sei? Poca roba, una decina. E qua sono, allora, 12 circa, però c'ho quel famoso filtro anti-TPY che ora lascio fisso per evitare problemi. Quindi 10 battutili, una decina di battutili. Vedi il segnale mio, per curiosità, adesso siamo sempre con i segnali fissati. Vediamo come sta soffitto il mio segnale. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5. Ti faccio portante multa e poi il fischio. 7 radio 4. Siamo lì, dai Anto, siamo lì. Anche tu 7 o di più. Capo, ora a vedere, adesso ho alzato parecchio vatti, com'è? Io ti vedo sempre 7 radio 4, un pelino, ma proprio un pelino è aumentato, ma sei sempre lì, siete tutti e due di ho visto. Ecco, aspetta. Ora mettiamo così. Infatti sei sceso, adesso me ne sono accorto. Anto, e per il futuro tu la lingua la vuoi cambiare o vuoi tenere quella sempre? Voglio tenere sempre questa, ma se il futuro va bene perché la vuoi cambiare? Che senso ha? Beh, perché in realtà poi ci sono antenne senza radiali che sono un po' più performanti, no? Come ti dicevo prima. Magari guadagni ancora un santiago in più. E fuori città non è poco, dai, in città è trascurabile, ma fuori città potrebbe essere una cosa interessante. Capo, ma se l'antenna andava, perché la dovrei cambiare? Non ho capito, non ha senso. L'unica cosa che vorrei fare è se busco il capo e gli mettercela a 4 metri. Io dicevo un ragazzo che da Tissi usciva con la base magnetica, mi arrivava qualche sorpresa nel santicamento. È buono. Pare che l'hai ascoltato tu quello lì. Anto, ti ricordi? Quello di ieri, quel ragazzo, ieri sera. A me mi arrivava più di nove mi arrivava. Ma già va bene, dai, non mi posso lamentare. Ciao, come mi sta dando soddisfazione questa antenna? Non è altissima, ma sono convinto che se io ce la porto a 4 metri, se io devo buscare il cavo, perché altro cavo non ne vorrei usare, l'H155, a meno che non mi portino il coso, l'R158AU che c'è il coso rigido dentro, allora cambiamo idea. Se io la porto a 4 metri, c'ho già le staffe, c'ho. Mi te la butta a 4 metri, allora cambia la musica. Ma come stavi dicendo prima, tu ti fai sentire dappertutto, cioè non lo so quanto ti potrebbe interessare. No, a me la mia idea è quella, la mia idea è di mettere un palo, cioè c'è il palo, ce l'ho già. L'antenna di mettercela a 4 metri di altezza. Questa è la mia idea. Antone, vuoi sentire un'altra? Allora, quando avevo ancora laringo, io laringo l'avevo messa con il palo da 6 metri, sempre lo stesso cavo, no, quello grosso, l'H, ma l'RG213, prima di questa, no? Beh, nonostante fosse alta 6 metri, più tutta l'antenna, non arrivavo a Sandro di Polo Torres, ero in mezzo al QRM. Se questa è più bassa, c'è il palo di soli 3 metri e mezzo, il palo poi alto da terra 1 metro, quindi l'antenna è sollevata dal pavimento, dal terrazzo a di 4 metri e mezzo, ecco, dal pavimento. Eppure c'è stato un cambiamento notevole. Io non capisco queste ringo perché non hanno lasciato il progetto originale. Il progetto originale era di una semplicità estrema e la bobina faceva solo un giro, capito? Un giro completo. Invece lì gli hanno fatta la bobina doppia, poi l'hanno fatta ancora più, diciamo, più larga, capito? Gli hanno messo troppa bobina e bisognava accorciare lo stilo. Un pasticcio hanno fatto, vabbè. E adesso l'hanno rifatta, è uguale a questa che ci ho montata più o meno, ed è una subiavetta. Quella là, se tu a 2 ci di gabbo per le stazionarie, la devi fare a 4, se tu quella, la fai come quella che ho io su, Plus 4080, io schiaccio la portante e ti faccio vedere una cosa domani. Schiaccio la portante ed è, non si muove nemmeno la carletta primaria. Grazie, bombolino, dimmi. Ehi, fammi tende i seminoghi. Che è successo? Dimmi, dimmi. Cappa, no, sto parlando di antenne, stiamo parlando. Quello è quello che ho potuto constatare io, Marco. Io quell'antenna l'ho fatta a 4,80 m. L'ho tarata bene, gli ho cambiato anche il mariotto. E la, guarda, il filo che c'aveva, Bacari dai, no, non voleva visto. Io l'ho fatta così, l'ho tutta revisionata, gli ho messo il capricorda nuovo, tutta vulcanizzata. Hai visto che pompa? E c'è un macchinetto, mi così vado che dà. E ho sentito che è giù, sta pompando forte. Sì. Io mi ricordo, ma la tua nuova cosa? Buonasera, chi è entrato? La tua nuova che cos'ha? Le fascette sempre Oliviti. Questa di 10 anni fa, di più di 10 anni fa, questa che io ci ho piazzata nel tetto, Oliviti, ed è più fine. Quella che ho in deposito no, c'ha le fascette. E quella con le fascette, se tu non la fai come dico io, oi, ti sto dicendo che prima di capirlo io sono diventato macco. Allora poi ho guardato la scheda tecnica a 4,80 m, mi ha giubilato punta al metro un attimino, tra ho smuovato, accorciato 4,80 m giusti, tra stretto tutto. Vado a accordare, giro lo sub, da accordata l'antenna, ma va a fanculo. Sì, ma quello che ho avuto io l'ha avuta tanta gente, si è dannata l'anima perché il manuale diceva lunghezza 5 metri, poi però non riuscivi a trovare né la risonanza dell'antenna tramite il morsetto sulle spire e tantomeno abbassando lo stilo. Addirittura, così come diceva la fabbrica, risuonava sui 24 MHz. Ho dovuto faticare a capire dove risuonava perché non ho analizzato l'antenna, solo con Rosmet l'ho fatto. Va bene, quindi quella con le viti è migliore, buono sapersi, deve essere il modello buono, quello precedente. Poi hanno, si sono svegliati male, hanno fatto un pasticcio con quella con le fascette. Vabbè, dai, fai girare Antu. Avanti Cristian, quell'altra che è uscita e torna come quella lì è tornata, l'altro modello, e cambia anche lo sub. Avanti Cristian. Oh, questa antenna, questa c'è tutta, fate prima. Già se le porta via il vento prima o poi. Per poco ma sicuro, fidati. Tant'è Anto che questo vento che c'è stato in queste ultime settimane, mesi, un po' di danno ne ha fatto qualcuno. E credo che questa sarebbe caduta, invece niente. Questa sembra una canna da pesca, come flette, sottile, il vento le passa attraverso, no? A fianco. Già hai capito comunque là. Comunque dico una cosa, per come l'ho riparata io adesso quella là, perché si era attaccata da sotto la carica, gli ho messo un bullone passante, gli ho messo, fatto bene. Per come si è in quella lì, adesso è robusta, quella non ha problemi, mi lo sai, un cavolo, quella non si stacca più. Sì, infatti ci sono delle migliorie da fare, se ha la possibilità meglio farle. Se no bisogna stare, se si rompe l'antenna bisogna stare sali e scendi, a me quello non va. L'antenna va messa e deve stare lì anni, non che ogni pochi mesi bisogna salire, aggiustare e accorciare, raccattare radiali dal tetto. Tu prendi Giovanni. Ho cambiato la radio, ho visto il segnale, effettivamente lo leggo diversamente da quello che leggi tu prima, siete tutti e due a 9 e radio 5. E come tu mi arrivi a me, mi arrivi 9 qua. Caspita, va bene. bel paradiso lì dove sei tu, ti invidio, capo, mi piace molto a me. Hai capito? Avete parlato in due, Giovanni, ripeti. È arrivato in tutti e due alla stessa maniera, perché nella radio che c'avevo prima, nel Midland, non si legge bene il display, capito? Invece su questo è bello pulito, lo leggo chiaro. Siete tutti e due, radio 9, cioè segnale 9, radio 5. Sì, allora io sto usando un apparecchio, si chiama CRT 7009, sembra una specie di VHF, se lo vedi, display digitale, tutti i tasti bianchi. Anto, non so se ce l'hai presente tu. Capa, sì, già ce l'ho presente, però mi sa che ti arrivo anche da deposito, l'altro giorno mi hai sentito dalla Donalda l'altro giorno. Hai visto che ti arrivo lo stesso? A me? No, all'amico il Plattamona. Tu non so, mi sei sempre arrivato qua, mi sei sempre arrivato. Io stamattina ho parlato con le Isole Canarie e con San Paolo. Lì arriva forte, c'è il mare. Che bello che è. Che silenzio che ci sarà. Lui non ci quantifava per la lingua, però quando mi ha detto Sardegna, saluto, hola, sai, queste cose. Capo, ho detto che bello che silenzio che c'è lì. Tranquillo sono qua, capo, è un residence, siamo in 5, ma capo, anche adesso ci sono io fuori, sono 5 famiglie, con figli, con bambini, ma non sente nessun casino. Ma è bellissimo, capo, ecco per me che riprendo l'offo, ok? Un attimino. Vai pure, altro vai, Cristian, ci sei, mi ascolti? Cristian, sembra mobile, forse è sceso dalla macchina. Bene, sto cercando di fare una foto, ma qua sempre risulta buia, vabbè. Ti dai il flash, metti il flash. Ho provato, ma il contrario, viene tutta slavata, non vedi dettaglio. E vabbè, cellulari sono questi, con la macchina fotografica avevo più libertà di movimento. Adesso come adesso il cellulare, la macchina fotografica, devi scaricare tutto, lo stampare. Sì. Ti volevo chiedere, quanto l'hai pagata l'antenna? Di quella marca l'avrei presa da internet, grosso modo quanto dovete venuta con la spedizione? Guarda, me l'ha presa Gianluca, quello di Sassari, e niente, ciò che costa 45-47 euro. Beh, quello è un prezzaccio di favore, perché costa molto di più. La Sirio GPE la vendono sui 60 euro dai negozi principali, più la spedizione, quindi almeno 15 euro di spedizione, perché il pacco è un po' lungo, se non 20, fatti rugonto. No, mi trovo bene, guarda, prima stavo scendo con un dipolo, era un problema, non mi sentiva quasi nessuno mai. Sì, qua segnale 8 e mezzo, quasi 9, diciamo che modulando riesce a sfiorare il 9. Adesso hai cambiato apparecchio, però forse è da più watt. Va bene, vediamo se rientra Antonio, se entra qualcuno. La postazione, dopo non uscivo con la radio e magari lo troviamo. Abbiamo parlato in due. Sì, comunque un incremento c'è stato. Poi tu in quell'antenna hai dei manicotti in plastica per proteggere la zona delle viti. Io invece quelli non ce li avevo, la Midland non te li dà, però ho vulcanizzato selvaggiamente tutto proprio ad arte, ermeticamente, tutto quello che si poteva isolare l'ho isolato. E sono utili quei manicotti perché ti robustiscono anche le giunture tra un elemento e l'altro dello stilo. È vero, sì, hai fatto un bel lavoro. Quello io l'ho fatto, l'ho piazzato sempre in furia, però la ributto giù e come dire un po' bel tempo la rifaccio come stai dicendo tu. Sì, poi vabbè, se avessi avuto la tua avrei fatto lo stesso, ho messo i manicotti originali, no, quelli di plastica, più il vulcanizzante. Ho vulcanizzato anche lo stube di taratura lì dove c'è la regolazione per le stazionarie tra ogni elemento, poi ho vulcanizzato in quel punto tra lo stilo e quell'astuccio di plastica che protegge la bobina, perché l'acqua se entra entra da su. Lì c'è un piccolo ring sottile che però poi, allora lì ci ho fatto una girata di, però lasciando libero, nota bene, il forellino di scarico dell'acqua, quello va lasciato libero. E poi che altro? Il PL proprio dalla tutto, anche parte del cavo, l'ho sigillato in modo da avere meno problemi possibile. È stato un lavoro, credo sicuramente sarà un lavoro anche molto duraturo. Mi consigli di spostarmi in un'altra postazione a vedere? Un altro apparato? Sì, fai pure. Vediamo se c'è l'altro amico in baramobile, se è rientrato. Hola, prova, test. Qua non sale. Prova. Illo. Hola, prova. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mi fischia. Prova. 1, 2, 3. Ehi là, eccomi. Ehi, adesso Giovanni prova un'altra postazione, un altro apparato, credo. Aspetta che fischia e abbasso. Ecco qua. Gappa. Ti mando il lavoro che ho fatto. Caspita, tutto vulcanizzato, anche dopo c'è la molla lì. Tutto fatto bene. Ehi, manda. Anche io avevo fatto le foto, però speriamo che non siano nel computer che è andato a male. Spero di averle salvate sull'hard disk. E vabbè, tanto mi, sempre quella, è tre radiali, cioè non è che vedi un granché. Non ti sento, avanti, chi è? Giovanni, non mi sento, tu sei? Marco, tu lo senti? Io lo sento basso. Sì, allora, Santiago 6, il segnale è sceso a 6, la radio quindi è più bassa perché sei più prossimo, più vicino al QRM. È un passaggio lungo. Radio 3, Santiago 6, radio 3. Praticamente prima eri circa 9 e adesso sei Santiago 6. Per caso hai la stessa radio anche? Stessi watt? Anto, capita la storia? Santiago 6 con la Ringo e 8,5, 9 modulati con la Energy 5 ottavi, cioè con la Sirio GPE che è uguale alla Energy, capito? Cioè da 6 a 8,5 quasi 9. Non lo so perché, ma la stessa altezza hanno. La Ringo è molto più alta. Ha detto che la Ringo è molto più alta. È la stessa cosa che è successa a me. La Ringo col palo da 6 metri a Porto Torres e non niente indiani, a Balai. E invece questa è più bassa, però 5 ottavi, e mi ascoltavano a parità di watt, stesso apparato, stessi watt. E quindi vedi che Anto cosa ti dico, che certe volte cioè miglioreresti ulteriormente, però finché va, cioè se non c'è necessità di cambiarla. E quanto ti arriva a te, Antonio? Il segnale suo, quanto è di Giovanni? 4, Santiago 4. Cioè, riesco a capire quello che dico. Sì. Già, ma però sei un bel metro QRM. Non ho capito perché questa antenna fa così. Molto strana la cosa. Ma tu mi senti bene lì? Santiago 9, Radio 5. Non lo so. Devo dire che non sento neanche un pizzico, è pulito. Metti l'altra, Giovanni, che non riesco a tirarti su che è un po' da burotto. Ok. Quindi lui ti riceve uguale, però perde in trasmissione, capito tanto che cosa strana? Lui ti riceve uguale ma perde in trasmissione, come se fosse poco efficiente in trasmissione, non come se fosse, praticamente lo è meno efficiente. Strano, come PL fatti bene sono. Ah boh, Non so. Non lo so. Io comunque là ce l'ho, quella lì, ma cos'era? La comparabile a seconda mano, Bosa. Ah, quello non lo so. Oh, conta che è più alta, cioè la Energy, diciamo, non è proprio 7 metri, non so se sia la Sirio dai 6 ai 6 e mezzo, c'ha più bobina, capite, è un po' più corta, è una 5 ottavi leggermente raccorciata, però è pur sempre una 5 ottavi, l'altra è una Ringo mezz'onda, capito? E tutto influisce, mi è un casino, vediamo se è rientrato. Magari sta mettendo l'altra, è un casino, non capisco perché ha tutta questa discordanza. Attento a tutti, Giovanni, sei tu sempre? Sono sempre io, cambiato però usando un'altra parecchia. Qua c'è ancora più basso, 5 e mezzo, si sente il bip tipo Am International, 5 e mezzo, ma sei un po' al limite, perché qua il QRM è alto da me. Sì, è sceso ancora, Antonio, è sceso a 5 e mezzo, sta parlando un altro baracchino, c'è un bip tipo Multimode 3, Concorde, Viking, una cosa del genere. Ho capito. I misteri dell'etere. Allora, gli ho messo il filo un po' più grosso del pure, lo sai. Quello che va dall'attacco PL alla bobina? Non è la bobina, c'è quel coso, c'è lo stub. Lo stub. Aspetta, ma è una Ringo. Come non c'ha la bobina, quella spirale alla base? La spirale? Qua deve essere la sua bobina, no? Mi te l'ho mandata. Cappa, te l'ho mandata. Ah, ecco la notifica. Aspetta che l'apro. Perché è così buio il display, porca miseria? Aspetta. Eccola qua, sì, c'ha due giri di bobina, ecco qua, vediamo cos'altro posso vedere dalla foto, mannaggia, mi sembra quella che avevo io, non dico se la mia va due giri o tre giri di bobina. Quindi questa mi ha detto che è quella migliore, quella precedente, no? Quella è quella che ha aggiustato. Aggiustato, ok. Vedo che hai messo il nastro anche nelle giunture, buono. Poi, è giornata, sono qua, non so se uscire o no, devo farmi girare in moto, va. Non me ne affutto, e mi devo ancora fare barba, capelli, e non solo, sono ancora in vestaglia, sono. Ma un po' come dopo cosa c'è. Uff, una giugana. Come sono rientrato, cambio avanti, sono rientrato Antonio, cappa la grande, aspetta un attimo, cosa c'è? Bianco per me, dai, vi saluto io, ce la risentiamo che devo fare roba, ciao. E Antonio, anch'io mi stavo organizzando qua per farmi barba e capelli e tutto il resto, ok, ciao anche a Giovanni. Ci sentiamo alle prossime, ciao, buona serata a tutti. Ciao Marco, ciao Antonio, chiudo, ciao. Ehi, Giulio, buonasera. Ciao Giulio, ben sentito dopo tanto. Sì, sono per salutarvi, ciao Marco, ciao Antonio, devo uscire, ciao. Ciao, ci sentiamo. Ciao Giulio, radio ottima, segnale 9, stranamente 9. Ok, ciao, ci sentiamo quando puoi, ciao, buona serata. Ok, 3 watt, ciao. Ciao.